444. Insalata di patate. Benché si tratti di patate, vi dico che questo piatto, nella sua modestia, è degno di essere elogiato, ma non è per tutti gli stomachi. Lessate grammi 500 di patate o cuocetele a vapore, sbucciatele calde, tagliatele a fette sottili e mettetele in un'insalatiera. Prendete capperi sotto aceto grammi 30, peperoni sotto aceto numero 2, cetriolini sotto aceto numero 5, cipolline sotto aceto numero 4, acciughe salate pulite numero 4, una costola di sedano lunga un palmo, un pizzico di basilico e tutte queste cose insieme tritatele minutissime e mettetele in una scodella. Prendete due uova sode, tritatele ugualmente, poi schiacciatele con la lama di un coltello ed unitele al detto battuto. Conditelo con olio a buona misura, poco aceto, sale e pepe, e mescolato ben bene, servitevi di questa poltiglia, divenuta quasi liquida, per condir le patate, alle quali potete aggiungere, se vi piace, l'odore del regamo. Questa dose può bastare per 6 o 7 persone ed è un piatto che può conservarsi anche per diversi giorni. 445. Tortino di zucchini. Tagliate gli zucchini a tocchetti grossi, poco più delle nocciuole. Rosolateli nel burro e conditeli con sale e pepe. Poi versateli in un vassoio che regga il fuoco. Spolverizzateli leggermente di parmigiano in cui avrete mescolato una presa di noce moscata e copriteli di una balsamella sodettina. Rosolate alquanto la superficie col coperchio del forno da campagna e servitevi per tramesso o in compagnia dell'esso o di un umido di carne.